Certificati. Che cosa sono i certificati anagrafici e di stato civile? I certificati anagrafici sono documenti che danno informazioni su di te e la tua famiglia. I certificati anagrafici sono il certificato di residenza che dice dove risiedi, il certificato di stato di famiglia che dice chi sono i tuoi familiari, il certificato di stato libero che dice che non sei sposato, il certificato di cittadinanza che dice che sei cittadino italiano se hai la cittadinanza italiana. I certificati di stato civile sono documenti che danno le principali informazioni sullo stato di una persona. Sono il certificato di nascita, il certificato di matrimonio e il certificato di morte. Guarda il link qui sotto.